4. Una lettera del re. Fu la vita, non la morte, a tenere occupati Leone e Anna. Mentre erano in attesa del primo figlio, decisero che Anna sarebbe dovuta andare a Puna dalla madre. Leone fece il viaggio con lei, ma non poté aspettare la nascita del bambino. Prima che lei compisse 18 anni, lui le scrisse: «Mia cara, mia amatissima Annie, ho appena ricevuto la lettera del dottor Noe che mi informa che hai dato alla luce una bambina. Con quanta ansia ho aspettato questa notizia dopo la mia partenza da Puna. E che sentimenti di profonda gratitudine ho provato nell'apprendere che il bambino così a lungo atteso è arrivato e che entrambi vi state bene. Prenditi cura di te e di nostra figlia. Come desidero vederti, carissima, stringerti tra le braccia e stampare il primo bacio sulla fronte innocente della mia bambina. Pensavamo di avere un maschietto, non dobbiamo comunque essere meno felici o amare la nostra creatura meno perché è una femmina. In futuro, qualsiasi cosa uno di noi dovrà sopportare, saremo insieme e potremo aiutarci e consolarci a vicenda. Il tuo devoto e affezionato marito, Leon». Alcuni giorni più tardi scrisse: «Hai espresso spesso il desiderio di avere un vestito di satin nero per il tuo 20° compleanno. E ho deciso che tu ne debba avere uno. Ho trovato una pezza che dovrebbe essere sufficiente. Manderò il pacco per mezzo di Barisse. Spero che ti piaccia. Accetta il mio amore come dono. Mi spiace solo che per il tuo compleanno non potrò stringerti a me, cosa che desidero con tutto il cuore. E poi, sono appena tornato da uno sposalizio. La signorina Howell si è unita oggi con il signor Anderson e spero sinceramente che saranno felici. Erano spiaciuti che tu non fossi presente». Per tutto il pranzo, nonostante ridessi e chiacchierassi, ho aspettato il momento di poter correre a leggere la tua lettera tanto attesa. Più conosco la gente di Bombay e più cresce il mio disprezzo per loro. Sono noiosi, stupidi e non capiscono niente che vada al di là dei comuni fatti di ogni giorno, da cui non riescono a cavare niente di sacro o di interessante. Non ti paragono mai agli altri. Sarebbe assurdo. Amo solo te e non ho mai pensato nemmeno per un attimo di poter dividere la vita di ogni giorno con queste persone. Sarebbe impossibile. Ma spesso penso, quando mi capita di incontrarle, che se non avessi conosciuto te non mi sarei mai sposato. Tu sei la moglie che ho sempre sognato. Mentre leggo la tua lettera di domenica scorsa, sono pieno di felicità. Sì, tesoro. Le giornate sono lunghe, il tempo ci è nemico, visto che ci amiamo con tanta passione e che desideriamo ardentemente buttarci tra le braccia dell'altra. Mia adorata, mia dolcissima moglie, tesoro carissimo del mio cuore, quanto desidero stringerti a me, assaporare la benedizione, l'altissima benedizione delle tue amatissime labbra, realizzare le delizie più appassionate tra le tue braccia. Come sono inadeguate le espressioni di passione e di affetto con cui descrivo il mio amore, la mia devozione per te, cara. Spero di poter venire da te per la fine del mese. Fai preparare il vestito e accoglimi indossandolo. Non riesco, carissima, a esprimere con quanto ardore desideri vedere il tuo caro viso, avere ancora accanto a me la mia adorata moglie. Bacia per me la nostra cara bambina. Il Signore vi benedica per sempre, il tuo marito affezionato e devoto, Leon». Ma non si poteva ingannare la morte. Nel giro di pochi mesi reclamò a sé la bambina e anche la mamma di Anna. Il doppio colpo aveva distrutto Anna. Il dottore disse a Leon che probabilmente non sarebbe sopravvissuta a meno che non cambiasse aria. La burocrazia, come sempre, si muove con lenta goffaggine. I mesi passavano e quando finalmente venne loro assicurato il permesso di partire, il corpo giovane e sano di Anna aveva avuto la meglio. Si imbarcarono su un vascello in partenza per l'Inghilterra, l'Alibi. Pensavano che il viaggio, che sarebbe durato parecchi mesi, le avrebbe restituito completamente la salute. Ma prima che raggiungessero il Capo di Buona Speranza, l'Alibi fece naufragio. Furono messi in salvo da un altro vascello e portati nel Nuovo Galles meridionale. A quell'epoca Leone e Anna erano in attesa del secondo figlio. Decisero di farlo nascere in Australia perché lei non era ancora molto forte. Il bimbo, quando arrivò, visse solo poche ore. Anna, disperata, cadde malata. Non le importava più di vivere o morire. Leone trovò un passaggio sul primo battello a vapore per l'Inghilterra e la curò per tutto il viaggio con devozione instancabile. Alla fine, nel 1853, si erano sistemati a Londra. Durante i 3 anni del soggiorno londinese nacquero 2 bambini, Avis Annie Crawford Conybeare, il 25 ottobre 1854, ed esattamente un anno più tardi Louis Thomas Gunnis. Era la loro giovane madre che li portava al parco, cosa inaudita per la moglie di un ufficiale, ma lei camminava felice tra le bambinaie, incurante di una moda che non le piaceva. Adesso che splendeva ancora di felicità e scoppiava di salute, era più bella che mai. Il clima inglese le aveva ridato colore e i riccioli le addolcivano i lineamenti. Fu deliziata e divertita quando un pomeriggio, con Avis per mano e Louis nel passeggino, un giovane le si avvicinò pigramente e la impegnò in una conversazione. Lei non rivelò la sua identità e lui, prima di allontanarsi, le chiese se poteva rivederla. Lei, timidamente, rispose: «La mia padrona non permette visite di gentiluomini». «Allora mi permetterà di passeggiare ancora in sua compagnia?» «La mia padrona non mi permetterà nemmeno questo». E facendo ondeggiare la crinolina, si allontanò velocemente per evitare che lui vedesse il sorriso che non riusciva più a nascondere mentre abbassava la testa per guardare i bambini nel passeggino. Nel 1856 Leon venne destinato a Singapore. La famiglia si trovava lì quando, nella primavera del 1857, ci fu a Meerut la rivolta indiana. Nei combattimenti vennero uccisi alcuni ufficiali con cui Leon aveva prestato servizio. Nell'elenco di coloro che erano stati massacrati trovarono il nome di amici, uomini, donne, bambini e di parecchi parenti di Anna. Lei era distrutta da queste perdite e tormentata dal persistente pensiero che, dal momento che gli inglesi si erano impadroniti dell'India con la forza, gli indiani non potevano essere criticati per aver cercato di impadronirsene di nuovo con gli stessi mezzi. Quando la rivolta venne domata e la regina Vittoria firmò l'atto che trasferiva l'India alla corona, Anna aveva perso non solo amici e parenti, ma anche la sua fortuna. La sua famiglia all'improvviso si ritrovava a dipendere dallo stipendio di Leon, che non era mai stato alto. Non era ancora passato un anno che la cattiva sorte colpì di nuovo. Leon e alcuni suoi colleghi ufficiali avevano organizzato una caccia alla tigre. Era la stagione calda e Anna lo aveva supplicato di non andare, ma lui amava la caccia e ribatté che lei lo avrebbe trasformato in un animale domestico e le promise di tornare per la sera seguente. La tigre costrinse gli uomini a un lungo inseguimento. Era quasi mezzogiorno quando la catturarono. Per mantenere la promessa, Leon avrebbe dovuto cavalcare durante le ore più calde della giornata. Gli altri ufficiali lo consigliarono di aspettare la sera, ma lui si mise a ridere. Cos'era dopo tutto un po' di sole per uno che ci era abituato? Arrivò a casa all'ora prevista e cadde privo di conoscenza ai piedi di sua moglie. Lei rimase inginocchiata tutta la notte accanto a lui a pregare. Anche dopo che il dottore disse che era arrivata la fine, continuò a pregare che le venisse restituito. Ma quando all'alba non si videro cambiamenti, lei seppe che era morto. La gente fece quello che poteva. Gli amici ufficiali misero all'asta a Singapore i suoi cavalli e la bardatura e le diedero il ricavato. Poi, con 2 artigli della tigre, fecero montare una spilla d'oro. Per un po' sembrò che il dolore le facesse perdere la ragione. «È troppo, troppo!» pensava. «Suo padre, sua madre, i suoi 2 bambini, gli amici, i parenti, la sua fortuna e suo marito! Perché cercare di vivere se la vita era così crudele?» La vecchia casa a Carnarvon adesso apparteneva al patrigno. A lei non rimaneva niente. No, non era vero. C'erano Avis e Louis, di 5 e 4 anni. La fedele Miriam Bibi e Monchi si erano occupati di loro durante il periodo terribile in cui Anne era prostrata dal dolore. Ma chi sarebbe rimasto con loro se lei fosse morta o impazzita? Per amore dei figli di Leon, doveva cercare di riprendersi. Non si sarebbe mai aspettata di dover guadagnare per vivere. Per fortuna aveva ricevuto una buona educazione, incoraggiata dagli amici. Aprì una scuola per i figli degli ufficiali e cercò, senza eccessivo impegno, di riprendere una vita normale. Tutti erano gentili. Il suo vicino era un americano, Francis D. Cobb, di Boston. Era venuto a Singapore per consiglio del suo dottore perché aveva perso un polmone a causa della tubercolosi. Fortunatamente lui era diventato più forte e aveva costituito una società con un uomo più anziano. Mentre Leone era vivo, il signor Cobb era diventato amico della giovane coppia e aveva prestato loro una copia dei saggi di Emerson. Anna, nei mesi che seguirono la morte del marito, scoprì che poteva contare su di lui. Spesso la sera veniva a trovarla con un nuovo libro che arrivava dagli Stati Uniti. Le fece conoscere le opere di Longfellow e di Whittier, di Hawthorne e di Harriet Beecher Stowe. Le parlò di William Lloyd Garrison e di un sentimento nascente contro la schiavitù. Le raccontò di Abramo Lincoln, quello strano uomo scarno dell'Illinois in cui aveva riposto le sue speranze. Quasi a dispetto di se stessa, Anna si interessò alla causa dell'abolizionismo. Riempiva le giornate con la scuola e con i suoi bambini. A un anno dalla morte di Leon, la tristezza di fondo non se n'era andata, continuava a permeare qualunque cosa facesse o dicesse, ma era sparito il dolore acuto che aveva provato all'inizio. I bambini assorbivano sempre di più i suoi pensieri, erano molto diversi tra loro. Avis era gentile e affettuosa, mentre lui era molto vivace. «Io mi ricordo meglio di papà», gridò un giorno in giardino, «mi ricordo tutto di lui». «Bene», replicò Avis con calma ma insistenza. «Io ricordo come cavalcava quando ci portava a passeggio». «Beh, non è niente», ribatté lui eccitato, «io ricordo come saltava quando era un ragazzino». Anna, che li guardava dall'alto, scoppiò a ridere, poi si interruppe meravigliata. Aveva creduto che non avrebbe mai più riso. La sua grande preoccupazione era che la scuola si era dimostrata un fallimento economico. Gli ufficiali erano lieti di mandarvi figli, ma poi dimenticavano di pagare. Il suo patrigno l'aveva invitata a Carnarvon a patto che avesse ammesso il suo errore nello sposare Leon. Ma come avrebbe potuto vivere nella vecchia casa che amava, ora che sua madre era morta? Prima che prendesse una decisione, la sua scuola aveva attirato l'attenzione del signor Tan Kim Ching, il console del Siam a Singapore, che era stato incaricato dal re di procurare una governante inglese per i suoi figli. Dopo lunghe trattative, Anna ricevette una lettera dal re in persona. Era inglese, 26 febbraio 1862, Gran Palazzo Reale, Bangkok, alla signora Anna Leon Owens. Signora, siamo soddisfatti che voglia intraprendere l'istruzione dei nostri amati figli. Speriamo che questo significhi fare del suo meglio per insegnare a noi e ai nostri figli, che gli inglesi chiamano abitanti di una terra ignorante, la lingua, la scienza e la letteratura inglesi, e non per convertirci al cristianesimo. Come noi siamo fedeli di Buddha onnipotente, così voi seguite Cristo, perché noi desideriamo conoscere la lingua e la letteratura inglesi più che nuove religioni. Ci aspettiamo di vederla arrivare a bordo del piroscafo siamese Chow Pia. Abbiamo scritto al signor William Adamson e al nostro console a Singapore per autorizzare la soluzione più conveniente per lei e per noi. Credetemi, sinceramente vostro, Sua Illustrissima Grazia, Maha Mongkut. 5. La prima notte. Nel primo pomeriggio il Chow Pia iniziò il suo lento e prudente passaggio sul fiume serpeggiante. Sul ponte vennero sistemati dei tavoli dove i passeggeri mangiarono e fecero conversazione. Si vedevano le scimmie saltare di ramo in ramo. Gli uccelli volteggiavano, cinguettando tra le fronde. Dopo mezz'ora la nave calò l'ancora in una squallida cittadina. Il capitano andò a riva per fare rapporto al governatore e agli ufficiali di dogana. Quando il Chow Pia ricominciò il viaggio lungo il fiume, la signora inglese e suo figlio erano appoggiati al parapetto. Più si avvicinavano alla città e più frequenti erano le case. Mentre il sole calava, arrivarono in vista di un tetto all'inglese. Poi comparve una cappella tra due case che si ergevano tra gli alberi. Evidentemente si trattava del quartiere dei missionari americani. L'agitarsi delle fronde sopra la cappella, l'aspetto familiare e pacifico della scena fecero breccia nel cuore della donna. Aveva davanti il fascino della notte che si avvicinava, il buio e il mistero della terra in cui era arrivata. Il pensiero la riempì di un timore indefinibile e per un istante desiderò aver dato ascolto ai suoi amici di Singapore. Poi risolutamente scacciò la paura. Per un'altra mezz'ora la nave si mosse nel buio, buttando l'ancora vicino ad alcune carcasse di navi da guerra siamesi. Un po' più avanti, Anna riuscì a distinguere un lungo muro bianco su cui torreggiavano uno sull'altro i tetti del Palazzo Reale. Rimase a osservarli assorta, incurante di quello che la circondava. Ecco, questo era il palazzo in cui presto avrebbe dovuto iniziare il suo lavoro. L'avrebbero accompagnata là quella sera. Le sarebbe venuto incontro qualcuno del consolato inglese? La gente del circo si preparava ad andarsene. Erano già arrivati gli ufficiali siamesi che li dovevano condurre nel luogo in cui avrebbero dovuto sistemarsi. Dalla fiancata della nave vennero gettati su piccole imbarcazioni i loro fagotti e i bauli. Scesero i cani che abbaiavano e uggiolavano. Scesero le persone, i portelli vennero aperti e iniziarono a scaricare la nave. Non era arrivato ancora nessuno a prendere Anna, né mandato dal governo siamese né dal consolato. Iniziò a sentirsi spaventata e abbandonata. Poi, dalle ombre che erano calate sempre più fitte, emerse una lunga gondola magnificamente intarsiata. Sul ponte c'era una piccola cabina dorata, protetta da tende. Al suo interno, coricato su cuscini e tappeti, c'era un ufficiale siamese, davanti a lui uno schiavo agitava un ventaglio. L'ufficiale salì sul ciaopia, dondolandosi con aria indifferente, come se avessero obbedito a un segnale. Tutti gli asiatici sulla nave si prostrarono. Solo la signora inglese, la sua governante indostana e il persiano rimasero in piedi. Monchi, stupefatto, fissò l'uomo arrogante con la sottana rossa e iniziò a mormorare delle preghiere, esclamando ogni volta che ne terminava una: «Buon Dio, cos'è questo?» La signora rimase in composta attesa. Anche l'ufficiale, altrettanto composto, aspettava. Il capitano Orton emerse dall'ombra. «Signora Leon Owens, posso presentarle Sua Eccellenza Chao Phya Sri Suraya Wong, primo ministro del Regno del Siam? Vostra Eccellenza, la signora Anna Leon Owens». La donna fece un inchino altezzoso. Sebbene fosse mezzo nudo e non avesse alcun emblema a denotare il suo rango, Anna si rese subito conto che il nobile siamese imponeva rispetto. Fece cenno a un giovane attendente che si avvicinò strisciando verso di lui. Un rapido flusso di sillabe incomprensibili e l'uomo sul ponte si rivolse ad Anna in inglese. «È lei la signora che deve insegnare alla famiglia reale?» Lei inclinò leggermente la testa. «Sono io. Ha amici a Bangkok?» «Non conosco nessuno». Un altro scambio di battute in siamese. La signora inglese non poteva sapere che il proprietario degli occhi neri, orgogliosi, che la fissavano con intensità, capiva perfettamente quello che diceva. La sua faccia non mostrava altro che arroganza. L'interprete le si rivolse di nuovo. «Cosa farà? Dove dormirà stanotte?» Sul viso di lei un muscolo si mosse involontariamente. «Non so», rispose, cercando di mantenere ferma la voce con la forza della volontà. «Sono straniera, ma avevo capito dalla lettera di Sua Maestà che al mio arrivo mi sarebbe stato fornito un alloggio e lui sapeva quando saremmo arrivati». L'interprete e il nobile la scrutarono con insolenza. Poi il dignitario parlò e l'interprete tradusse. «Sua Maestà non può ricordare tutto», disse con indifferenza. «Può andare dove le aggrada». Anna Leon Owens fu sbalordita dall'insensibilità di questa accoglienza. «Adesso capisce cosa intendo», chiese il capitano Orton. «Quanta considerazione si deve aspettare da questi uomini?» Con tono gentile continuò: «Lei può restare qua, se lo desidera, ma scaricheremo per tutta la notte e non sarà piacevole». «Grazie», accettò a voce bassa. Il capitano si girò e si allontanò, poi tornò indietro. «E l'altra mia offerta è sempre valida». Con qualche coperta e cuscino prepararono sul ponte un letto per Luis. Al buio Anna sedette accanto al bambino, più spaventata di quanto fosse disposta ad ammettere, ma era stata lei che aveva messo se stessa e suo figlio in quella situazione. Nessuno dei suoi amici aveva approvato. Ma cos'altro avrebbe potuto fare, a meno di sposare Francis Cobb o George Orton? «Leon, caro», sussurrò tra le labbra socchiuse, ubriaca di dolore. «Non potevo, non potevo». Poco distante, nell'ombra, il capitano passeggiava sul ponte imprecando tra i denti. Ogni tanto guardava la sagoma del bambino che dormiva e della donna curva al suo fianco. Le chiacchiere dei facchini sembravano il gracchiare di qualche strano corvo notturno. Poi al ciaopia si avvicinò una barca. In un attimo fu vicino alla passerella. «Capitano Orton?» domandò una voce allegra. Il capitano si sporse in avanti con sollievo. Un inglese, gioviale, con i capelli che stavano ingrigendo e una faccia rotonda e rubiconda, saltò a bordo ridendo. «Ha notizie del console?» chiese il capitano. «Sir Robert? Oh no! Passa l'estate fuori città. Ho pensato di fare un salto a salutarla». Tutto fu organizzato in pochi minuti. Il capitano John Bush, il comandante del porto, sarebbe stato felice di occuparsi della signora Leon Owens finché il re non l'avesse mandata a chiamare. A casa sua c'era una stanza modesta, ma pulita. Ben presto, Luis, mezzo addormentato, Bibi, Monchi e Bessie il Terranova, i bauli e le scatole e Anna salirono sulla barca del capitano Bush. Il capitano Orton, cercando di superare il rumore dei facchini, li salutò con addii e auguri. Tra lo sciabordio regolare dei remi, la barca si muoveva in una scena onirica. Navi con prue superbe, affusolate ed elaboratamente intagliate, e piccole gondole graziose che passavano in continuazione. Ma era il rumore dell'acqua che riempiva le orecchie di Anna Leon Owens e rappresentava una medicina che in qualche modo mitigava la sua disperazione. A proposito, interruppe allegramente il nuovo amico, dovrà venire con me alla commedia, signora, perché mia moglie ci ha portato i ragazzi e hanno loro le chiavi di casa. La commedia? Oh, non si allarmi, signora, non è un vero teatro, solo uno spettacolo da due soldi, messo in piedi da un francese che è arrivato da Singapore 2 settimane fa. La rappresentazione si tiene sul terreno del palazzo del principe Wongsa. Se c'è, le presenterò il principe. È il fratello più giovane del re, brava persona. Lei non rispose. La notizia era tutto fuorché piacevole per lei. Un nobile siamese di recente aveva turbato il suo equilibrio. Con pochi colpi di remi, nella corrente silenziosa, la barca si trovò davanti a un molo di legno sormontato da 2 lanterne. Il capitano Bush cavallerescamente l'aiutò a scendere. Luis, svegliato da un sonno profondo, non volle stare con Bibi, ma iniziò a piagnucolare: «Voglio la mamma! Voglio la mamma!» Tenendolo in braccio, Anna salì faticosamente gli scalini che portavano al molo, dove si intravedeva una sagoma indistinta. La goffa massa si districò e dal buio uscì una grassa mano umana. «Sua Altezza Reale, il principe Wongsa», disse il capitano Bush in modo molto diretto. «La signora Leon Owens, la nuova governante, Vostra Altezza Reale». Una mano morbida si chiuse sulla sua e una voce non sgradevole la salutò. Vicino stava una figura silenziosa. La luce di una lanterna mostrò un volto sardonico con lo stesso abbigliamento del loro primo incontro, con una pipa che gli pendeva dall'angolo della bocca. Il primo ministro la guardava con occhi enigmatici e un'aria di segreto piacere per il suo evidente terrore. Senza parole, più sconvolta che mai, lei si affrettò dietro il capitano Bush, che, passando oltre una porta di bambù e superando una folla di gente accaldata, si diresse verso alcuni posti liberi davanti a una specie di altare. Alcuni cinesi, dall'aria rispettabile, sedevano più lontano, mentre i sedili dietro il capitano Bush e Anna erano occupati da alcuni stranieri che la osservavano con curiosità. Su un palco rialzato, ornato da tende ricamate con fiori dorati, stavano distese alcune signore siamesi. Intorno avevano i loro bambini che ridevano e gesticolavano nei loro ricchi abiti di seta ricamata. Comparve un giocoliere, era un piccolo francese dall'aria furba che eseguiva i trucchi con destrezza. La sua bambola ventriloqua parlò, la borsa vuota si riempì di uova, le pietre si trasformarono in dolci e i dolci in pietre, e gli uccelli impagliati si misero a cantare. Il pubblico era deliziato. Ci furono mormorii di approvazione e strilli occasionali che provenivano dalle tende. Anna, in prima fila, teneva stretto il suo piccolo con la testa che ciondolava sul petto. Il sonno gli aveva chiuso gli occhi, lei era stanca e scoraggiata e stava aspettando con infinita pazienza che lo spettacolo finisse. Finalmente successe. Il capitano Bush si alzò e con lei al seguito uscì dal teatro. Nella confusione non era riuscito a localizzare sua moglie. «Sarà senza dubbio a casa prima di noi», affermò. Entro mezz'ora approdarono a un piccolo appezzamento. Dalla barca emerse un gruppo stanco e abbacchiato. I marinai scaricarono i bauli e le scatole. Oltre un cortile in terra battuta, liscio e pulito, una scala di legno conduceva a una piccola veranda dove si trascinarono stancamente. La signora Bush li stava aspettando con un bambino addormentato in braccio. Senza scomporsi e senza mostrare sorpresa per l'arrivo degli stranieri, li accolse con un sorriso incoraggiante. La sua gentilezza e semplicità scacciò in parte la sensazione di abbandono. «È stato molto gentile ad accoglierci», disse Anna, rendendosi conto che era un grosso sacrificio chiedere ad una madre di 6 bambini di ricevere 4 ospiti inaspettati nel mezzo della notte. «Oh, per niente! È un piacere», replicò la signora Bush con sincerità. Con calma condusse Anna e Luis verso una stanza, accese loro una lampada e socchiuse le persiane. Senza fretta poi sistemò delle stuoie sulla veranda posteriore per Monchi e Bibi e Bessie prese posto sulla porta. Un marinaio portò i bauli e Anna ne scelse uno per la notte. Luis quasi non si svegliò mentre lei lo spogliava e gli metteva il pigiama. Lo appoggiò sul letto e tirò la zanzariera. La signora Bush se n'era andata, anche se era pronta per andare a letto, il sonno tardava a sopraggiungere. Le strane scene della giornata si inseguivano nella sua mente in una gran confusione. Era profondamente scoraggiata dall'accoglienza ricevuta. Confermava le peggiori paure dei suoi amici. Il rifiuto del primo ministro di farsi carico della sua sistemazione l'aveva spaventata e riempita di risentimento. Venne presa dalla paura dell'ignoto, così forte da impedirle di ragionare. Si agitò nel letto, incapace di stare ferma, poi si alzò e stancamente si inginocchiò davanti alla finestra, da dove poteva vedere le stelle, l'unica vista familiare in quella strana terra. E mentre pregava, un sonno agitato sopraggiunse. Quando si svegliò, l'alba lentamente si faceva strada dalle finestre semiaperte. 6. Il Kralahome. Anna si alzò mentre la tristezza della notte prima scendeva su di lei come uno stormo di avvoltoi. Luis dormiva ancora. Mentre si vestiva e si pettinava rapidamente, si preparò ad affrontare la giornata. Non poteva liberarsi dall'ombra della paura e della solitudine. Luis si svegliò e la sentì muoversi. Era impaziente, pieno di domande. Aveva un sorriso fresco e riposato. Un improvviso raggio di sole gli passò tra i capelli. «Mamma, siamo arrivati! Dov'è il palazzo?» Lei sorrise e lo portò alla finestra. «Inginocchiati e chiederemo al Padre Celeste di prendersi cura di noi in questo posto nuovo.» La voce infantile di lui si unì a quella di lei. «Padre nostro, che sei nei cieli!» Le parole portarono come sempre conforto mentre lei pregava con tutto il cuore. Quando furono usciti dalla stanza esterna dove la signora Bush li accolse in déshabillé, non bella come era sembrata la sera precedente, ma con lo stesso gradevole sorriso, li fece accomodare a un tavolo preparato per la colazione, con frutta e tè. Dopo che si furono seduti, dei servi portarono ciotole di riso fumante e zuppa. Il cibo era buono. Prima che avessero finito, il capitano Bush si unì a loro. «Bene, come va?» chiese con il cuore. «Vi sembrano migliori le cose stamani? Il principe l'ha spaventata per bene, vero?» Anna sorrise fiaccamente e il capitano si lanciò in una lunga descrizione di quello che era successo a beneficio della moglie. Lei lo ascoltò con attenzione. Nel cortile sottostante, due dei suoi figli nei sarong bagnati si inseguivano ridendo e si tuffavano nel fiume che lambiva la casa. Luis non vedeva l'ora di raggiungerli. «Davvero», disse il capitano girandosi verso Anna, «il principe Wongsa non è una cattiva persona. Agli stranieri del posto piace, ha la fama di essere liberale e rispettabile. Tra poco se ne renderà conto anche lei.» «Sarà», ammise Anna incerta, «ma al buio mi è sembrato un orso. Adesso comunque mi chiedo cosa farò.» «Fare?» ripeté il capitano. «Oh, non deve fare niente. Questo è il Siam. Non ci si affretta a fare le cose. Il re ha speso denaro per farla venire qua. A suo tempo richiederà i suoi servizi.» «Ma il re non sa nemmeno dove sono», obiettò lei. «Ah, lo sa, invece, il re sa tutto quello che succede. A suo tempo il Kralahome la manderà a prendere.» «Chi mi manderà a prendere?» «Il Kralahome, il primo ministro che ha incontrato ieri sulla nave, è l'uomo più importante del regno. La manderà a prendere quando avrà deciso cosa fare di lei.» La colazione era appena finita quando questa profezia si avverò. La barca del Kralahome accostò a riva. L'interprete le disse che doveva prendere i suoi servi e il bagaglio e andare subito al palazzo del suo padrone. «Oh, non si preoccupi», la signora Bush consolò Anna con un colpetto sulla spalla. «Tutto si sistemerà, non abbia fretta.» «Grazie per tutto quello che ha fatto per noi», rispose Anna con gratitudine. «Non riuscirò mai a esprimere la mia riconoscenza per quello che ha fatto per degli estranei.» Il capitano salutò con una mano grassoccia e la barca con i suoi numerosi rematori salpò nel fiume, che di giorno era ancora più affollato. Un quarto d'ora dopo attraccavano a un molo di pietra in un piccolo canale. Il gruppetto, con Anna in testa, Bibi con Luis Monchi e il cane Bessie al seguito, attraversò il molo fino a un cancello basso che si apriva su un cortile pavimentato con lastre di pietra tagliate in modo rozzo. Due mandarini di pietra dall'aspetto feroce a cavallo vigilavano sull'ingresso. Più in là un paio di soldati in bassorilievo li sfidavano. Vicino c'erano delle sentinelle vive, condivise di foggia europea, ma a piedi nudi. A sinistra c'era un padiglione che doveva ospitare rappresentazioni teatrali, con una parete completamente dipinta. Sulla destra c'era il palazzo del Kralahome con una grande facciata semicircolare e sullo sfondo numerosi edifici. Anna e il suo seguito, stupiti, salirono le scale che conducevano al palazzo. Si mossero in saloni spaziosi, tutti coperti da tappeti. Alle finestre c'erano tendaggi preziosi, dai soffitti scendevano imponenti candelabri, su un tavolo intarsiato di madreperla e cesellato d'argento c'era un superbo vaso goffrato e lucidato. Diverse varietà di fiori riempivano la stanza ed emanavano un profumo languido e vagamente opprimente. Finalmente arrivarono alla sala delle udienze, dove la loro guida si fermò. Anna intravide parecchi giovani che li spiavano dietro spesse tende di velluto alte dal soffitto fino al pavimento. All'improvviso le tende si aprirono e il Kralahome comparve davanti a loro, seminudo come la sera prima. Un'ondata di paura irragionevole sopraffece Anna. Strinse i denti. Questo uomo era molto potente. Agiva per conto del re, era ovvio, e dalle sue decisioni sarebbe dipeso il suo futuro. Ma non riusciva a concentrarsi su quanto doveva dire, perché aveva la mente ottenebrata da un senso di ripugnanza. Anche adesso il torso nudo di quest'uomo la metteva a disagio. Mai prima aveva trattato affari con un uomo vestito solo a metà. Un sesto senso acquisito nei lunghi anni passati in Oriente le suggeriva che l'assenza di una giacca indicava mancanza di rispetto per lei e per la posizione che avrebbe dovuto occupare. In tutta la sala non c'era un solo viso amico. Fu presa dall'impulso di scappare. Si girò, decisa a imboccare un salone dopo l'altro fino al giardino e al molo. Ma poi. Il Kralahome tese la mano. Buongiorno, signore, disse con un inglese attento. Si sieda, signore. Lei prese la mano tesa e sorrise involontariamente per il signore. L'assurdità dell'espressione per il momento la distraeva dalle sue paure, restituendole la facoltà di pensare. Grazie, rispose e si sedette un po' rigidamente su una panca intarsiata. Il nobile, ignaro dell'imbarazzo che il suo abbigliamento succinto creava alla donna, si avvicinò con un'espressione di curiosità compiaciuta e diede un colpetto sulla testa del bambino. Come ti chiami, ragazzo? Domandò. Lui spianse allarmato. Mamma, andiamo a casa. Sta tranquillo, Luis. Di al principe il tuo nome. Ma il bambino piangeva sconsolatamente. Quando alla fine si calmò, Anna disse nervosamente all'interprete prostrato sul pavimento accanto a lei: Vuole chiedere al suo padrone di essere così gentile da chiedere al re, a nome mio, una casa o un appartamento tranquilli dove io possa sistemarmi il più presto possibile, mi piacerebbe un posto dove potermi sentire libera prima e dopo le ore di scuola. Quando la sua richiesta venne inoltrata al Kralahome, lui sorrise come se fosse sorpreso e divertito dal fatto che lei avesse delle idee sull'argomento della libertà. Dopo aver studiato il suo viso e la sua persona con attenzione, si rivolse direttamente a lei. È sposata? Lei fece un leggero inchino. Mio marito è morto. Allora dove andrà la sera? Da nessuna parte, Vostra Eccellenza, replicò bruscamente, seccata dall'insinuazione. Desidero semplicemente assicurare a me stessa e a mio figlio un po' di intimità e riposo dopo aver portato a termine i miei compiti. Da quanti anni è morto suo marito? Insistette lui, che sembrava non credere ai suoi propositi virtuosi. Una fredda espressione severa comparve sul volto di lei. La paura che aveva nutrito precedentemente si era trasformata in un freddo risentimento. Si rivolse all'interprete: Di al tuo padrone che non hai il diritto di indagare sulla mia vita privata. Quando l'interprete tradusse, sulla faccia del Kralahome comparve un'espressione sorpresa. Un'occhiata che le diede un breve e amaro momento di piacere, subito sostituito dal dubbio sull'opportunità di una risposta così brusca. Sapeva che gli orientali di solito aprivano una conversazione con una serie di domande personali, ma era importante stabilire subito la sua posizione e il suo diritto al rispetto e a una vita privata. Il Kralahom si strinse nelle spalle, come vuole lei. Iniziò a camminare avanti e indietro, ma senza toglierle gli occhi di dosso, come se avesse voluto scoprire per proprio conto quello che lei non voleva rivelare. Apparentemente soddisfatto, alla fine ordinò qualcosa ai suoi assistenti. In cinque o sei si alzarono sulle ginocchia e strisciarono all'indietro fino alle scale. Poi si inchinarono spasmodicamente, balzarono in piedi e corsero fuori. Il Kralahom ricominciò a passeggiare, sempre tenendo gli occhi fissi sul gruppo, con l'aria di un Buddha misterioso che vede e sa tutto. Rimasero seduti così per mezz'ora, finché lui s'afferrò la gonna di Anne e gridò: «Andiamo a casa, mamma!» E abbassando la voce, ma non abbastanza da non essere sentito: «Quest'uomo non mi piace!» Il Kralahom si fermò bruscamente e con voce bassa e minacciosa disse: «Tu andare non puoi!» Lo stava prendendo in giro, ma lui, si in preda a un terrore totale, afferrò il vestito della mamma e nascose il volto nel suo grembo, in qualche modo soffocando il suono dei singhiozzi. Tuttavia, affascinato e curioso, alzò lo sguardo solo per rabbrividire e nascondere il viso di nuovo. La madre, quasi altrettanto spaventata, manteneva un aspetto esteriore pacato, gli diede un colpetto sulla testa e lo consolò.